Con i compagni e le compagne della Valsusa, e abbiamo in diretta un nostro inviato che sta qui per parlarci con uno nella bottega di una delle persone che è stata arrestata. Ciao, sei in diretta. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, siamo chiaramente qui a Bussoleno in piazza e si respira un'atmosfera davvero gioiosa e carica, insomma, di determinazione per questa giornata che è appena all'inizio. Noi, come tu dicevi, siamo in un luogo che chiaramente, insomma, è stato e sempre stato un punto di riferimento qui a Bussoleno e che ora è diventato anche noto suo malgrado, insomma, per le vicende relative agli arresti. Siamo infatti nel locale di Mario il Barbiere, che si trova qui, insomma, con noi. Io quindi innanzitutto gli chiederei a Mario come sta vivendo questo, tra virgolette, questa nuova immersione di nuovo nel movimento notando dopo che purtroppo qualcuno, insomma, ha provato a sottrarlo da questa vita nella quale, insomma, lui è sempre stato dentro, ma lo vediamo, insomma, assolutamente a testa alta, così come dalle immagini che, insomma, sono uscite appena fuori dopo il suo arresto. Ciao Mario. Ciao. Devo dire io? Sì, parla. Allora, da questo arresto non mi ha toccato niente, proprio assolutamente niente. Sì, continua. Non sono riusciti a piegarmi e non riusciranno mai a piegarmi. Io gli ho sempre detto, piuttosto mi spezzo ma mi piegarmi mai. Ed è stata una cosa bella perché ho trovato tanta gente solidale con me. Qui a Bussoleno quella sera è scesa tutta la gente in piazza, più di 5-6 mila persone, ed è stata una cosa bella, non ti sentivi solo. E poi peraltro la vita sta ricominciando piano piano, sono a obbligo di dimora, sperando per poco, però non lo so. Ok, pronto? Dimmi. Sì, no, pensavamo che dovessi finire, scusaci. Senti, okay. Senti, io vi saluto. Ciao, ti passo Luciano. Va bene, vai. Pronto? Ecco, e quindi, insomma, stiamo cercando di raccogliere innanzitutto le testimonianze, insomma, di chi è stato arrestato e che ora fortunatamente si ritrova in libertà. Ci dovrebbe essere qui nei paraggi anche lo spezzone dei familiari degli arrestati che hanno deciso proprio per la giornata di oggi di costituire uno spezzone, insomma, unico, all'interno del quale chiaramente faranno veicolare, insomma, i contenuti di solidarietà, insomma, che a loro portano chiaramente molto molto da vicino, relativo proprio alla vicenda di tutti gli arrestati. Non appena magari saremo in grado di raggiungerlo, dovrebbe stare proprio qua vicino, insomma, richiameremo di nuovo per sentirvi, va bene? Va bene.